Friuli nel mondo, 251esima trasmissione dedicata agli emigrati. Voci canore dell'Alto Friuli, l'Agrupación Coral di Buenos Aires. Si ripresenta a voi oggi, cari emigrati, il maestro Rodolfo Kubik, che alcuni mesi or sono, nel corso di una visita al suo Friuli, vi ha dato una prova di non comuni doti di direttore d'orchestra con un'esecuzione di composizioni classiche. Oggi invece è qui con il coro Agrupación Coral di Buenos Aires. A Udine, a Cividale, a Cormons, a Ronchi dei Legionari e in altre località del Friuli è tuttora vivissimo il ricordo delle entusiasmanti esecuzioni presentate alcuni anni fa da questo famoso complesso che, come sentirete, ha impressionato gli ascoltatori anche per l'accuratissima dizione in friulano. Sì, perché i componenti dell'Agrupación Coral di Buenos Aires sono quasi tutti oriundi della grande Repubblica del Plata. Constatazione che non sorprende chi ebbe la ventura di assistere a concerti corali puntigliosamente preparati e diretti da Rodolfo Kubik prima che egli, nel 1927, lasciasse il Friuli per emigrare in Argentina, ove, incurante dell'età, continua la sua nobile missione d'arte. Disponiamoci quindi all'ascolto di questo canto composto parole e musica da Albino Torre. Friul Migrant. Musicata dallo stesso Kubik, è questa serenata implorante dall'amata unica medicina efficace a guarire il gran male dell'innamorato, un bacio. Eccovi dunque l'Unic Rimiedi. Soy malato, soy mala, no es mi.

Concludiamo questa trasmissione, che vuole essere anche un riconoscente omaggio al valoroso Rodolfo Kubik. Non dimentichiamo che a lui si deve la prima esecuzione corale dell'inno della Filologica Friulana, Un salute Furlanie, con una rapsodia di motivi friulani che egli ha con tanta originalità armonizzato proprio per voi emigrati. Eccovi Furlan Spalmont. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.